interrogativo? Assolutamente no, sordo no, assolutamente, è solo un problema di segnale, capisci? Io voglio avere il segnale che hanno gli altri radio, questo non ce l'ha. Allora, non c'entra niente la recessione, non c'entra niente l'RF gain, quello è il circuitino dello smitter che è fatto, come si dice, a membro di Segugio, dai, controlla che lo smitter sia diciamo così, intatto, che non sia messo male, perché la lancetta a volte se vecchio, sai, balla, oppure il circuito che c'è qualcosa, lungo il circuito vedere un po' la regolazione, ci può anche essere qualche dietro mezzo andato. Possiate lei un attimo? Certo! Allora, quella radio lì ce l'ha come difetto il Saturn Echo, lo smitter, per chiedere conferma a Danilo io gli avevo dato un altro smitter di un altro apparato, di una radio, non di una radio, scusa, di un deck, di un registratore a cassetta, ha recuperato lo smitter ed è riuscito a farlo funzionare naturalmente facendo le regolazioni, ha utilizzato la parte meccanica, non la parte indicatrice dove c'è il pannellino con i decibel, e è riuscito a metterlo. Lo stesso problema l'ha avuto Luca sul Pluto, che è lo stesso tipo di circuito, quasi simile, per cui di lì il problema, come ha detto bene Gianfranco, è solo regolazione di smitter, magari c'è qualche componente leggera perdita, però se la copertura, l'ascolto è ottimo, non tocca nulla, le altre cose non toccarle assolutamente, poi solo eventualmente sollevarti un po' lo smitter per farti l'allineato, se te lo permette naturalmente, ci dovrebbe essere un trimerino che regola il guadagno dello smitter, l'indicazione, non toccare il resto, se no fai danno, assolutamente quelle altre cose non toccarle, tocca solo quello che regola, però devi avere con certezza, guardati lo schema su internet, ci sarà scritto sicuramente, metti regolazione smitter, Saturn Echo, e ci sarà una resistenza variabile, un trimmer piccolino, e ti aumenta la resistenza o te la abbassa, il resto sono delle induttanze, non stuccare nulla, se no fai danni gravissimi, e bisogna portarla in laboratorio. Avanti di nuovo a te Claudio. Gappa, va bene, lasciamo tutto così allora, dai, ok? Rimango in quel rix, te lo chiudo. Ok, riprendo io allora. Io al limite controllerei la tensione che arriva allo smitter, vedi un po' se la tensione è buona, se uno smitter spento, se è bello illuminato, probabilmente avranno cambiato anche, magari che so io, hanno cambiato la lampadina o il LED e hanno messo qualche resistenza che abbassa la tensione, e dunque di conseguenza, siccome è tutto collegato, magari può essere anche quello, perché il VR1 è quello dello smitter, o Claudio, non si sfugge, guarda, non si sfugge. E poi anche c'è l'altro VR2, invece, che è quello sempre per lo smitter, ma per del SSB, è diverso, non c'entra niente. Tu adesso stai controllando quello AM/FM, lo smitter è VR1. Una volta che hai regolato quello, che l'hai portato al massimo, però controlla anche la tensione, come ti ho detto, perché se arriva a bassa tensione allo smitter, probabilmente avranno cambiato la lampadina e magari hanno messo, che so io, una resistenza, abbassato la tensione e fa sì che lo smitter sale di meno, sarà così, voilà. Può succedere, adesso questa è una mia idea che mi è venuta. Avanti Gianfra. Sì, c'è qualcosa in perdita che le sta dando fastidio, tutto lì. Può anche essere un problema degli apparati, ecco. Su questo ci hanno fatto un adattamento, anche come scatola, gli strumenti sono più grandi e tutte queste belle cose. Quindi è così, sto cercando anche di vedere, perché mi sa che c'ha quei trimmer, sono anche vicini al coso lì, agli strumenti, ho visto, perché c'hanno una schedina a parte. Cioè, lasciamo un attimo il bianco, vediamo se qualcuno vuole entrare, su 10, avanti che vuole entrare, se no riprendi Giulia. Scusate, mi allontano un attimino, riprendi pure. No, riprendo io, dai. Ok, no, ho sentito qualcuno basso sotto, vediamo se è troppo aggressione, avanti che vuole entrare qua sul canale 10, ah, forse è troppo aggressione, ok, di nuovo a te Gianfranco il mic. Però ci sono molte volte, tornando al discorso di questi segnali qua strani, molte volte mettono di questi segnali campione, aggiornate, ma vedete quello che hai ascoltato tu a 60 kg e te l'ha segnale campione. No, c'è dato proprio l'articolo, ti danno anche la data, adesso la stazione non me la ricordo, però l'avviano un'ora prima, figurati, per far scaldare un po' gli apparecchi, gli apparati. Apparati è un alternatore enorme, sono ancora quelle leve, interruttori a leva, quelli grandi, no, a basse, tipo centrale elettrica. Non so se sia in Olanda questa stazione. Comunque sto ascoltando la RAI, ma è penosa, guarda, è penosa. Ho provato, se non fosse un problema delle mie antenne, con un degente con la sua antenna interna, ma per quello proprio non la sente neanche la RAI. Sta da far pena, 655. Sì, sembra che siano due portanti sovrapposte, ci dà un effetto duplex, cioè una sopra l'altra, quando ascolti, ma è così da qualche anno, infatti non ho mai capito per quale motivo. 920 appena, cioè 910 appena, figurati. Adesso c'è di nuovo il portantista, si sente ogni tanto un colpettino, comunque già ti ascolto bene, non c'è problema. Poi c'è una frequenza campione, stavo leggendo di questo coso dei radioamatori, per tarare gli apparati ti danno una frequenza campione, adesso me lo sono scaricato il coso, che c'è una frequenza assolutamente precisa, serve per regolarti l'apparato se sei centrato di frequenza. Sì, sì, ce ne sono tante, ma basta andare su quella gli orologi, diciamo, come era DH qualcosa, adesso non me la mente, che senti tic, tic, tic, scandisce proprio i secondi, è l'orologio mondiale di riferimento per gli orologi radiocontrollati da parete, tutto lì. Vediamo se Giulio è rientrato. Giulio, perché era rimasto? Eravamo Natalino era a mangiare e quindi niente. Sì, te c'è sempre malissimo da cane, veramente, senti. Cioè il QRM altissimo, poi già a quest'ora, boh. Sì, sì, ho sentito. Comunque adesso mi ho trovato la pagina che ho salvato. Se tu cerchi YouTube e cerchi come verificare in casa c'è un ricevitore allineato, questo c'ha un 950 della, che è in voto a 4995.00, c'è una frequenza campione e ti serve per verificare con lui. Sì, ma ce ne sono varie, non è che una volta sentivano, c'erano tante, adesso invece anche quelle con i nuovi sistemi, PLL, regolazioni con quarzi particolari, è tutto un altro mondo. Sì, sì, no, assolutamente, Mari, io sto parlando, sicuramente non lo usi su apparati di nuova generazione, che sono sistemi di controllo, quasi termostattati, eccetera, eccetera, parliamo magari di qualche vecchio ricevitore a valvole, che quelli ogni tanto bisogna riallinearli quando ti devi aggiustare per dire la scala parlante, che di quelle ancora, quelle a cordicella chiamiamo, io ho un trio vecchio, anche se è perfettamente funzionante, questo è a valvole, ma c'è una ricezione molto importante, diciamo, così che è una vecchia radio, non so se lo conosci, il trio quello grosso, c'è ancora la scala parlante, due scale parlanti di quelle tipo le radio vecchie, l'indicatore centrale, lo smitter, c'è l'accordatore incorporato e un amplificatore dell'antenna, però ti posso dire, se la cavicchia molto bene, fa per confronto con l'altro ricevitore, l'HF diciamo, di dare mattana, e quello in quel caso di vari le scale graduate magari che siano molto precise, se magari uno si vuole divertire, aspetta che mi allineo anche la scala graduata in base alla frequenza campione. Sì, dicevamo, mamma mia, non ci posso pensare, quelli lì erano proprio tremende, anche perché poi dovevi fare a caldo, quando erano molto calde, eccetera. C'è su che QRM che c'è su micidiale. No, vabbè, quelle all'epoca costavano una barca di soldi, quella. No, la mia nuova, se la vedi è fiammante. E guarda, era un po' titubante quando la stava vendendo questo amico, questo radioamatore. non l'ha portata in ufficiale, dice guarda se la vuole qualcuno. Ho detto boh, a me non mi interessa, allora l'ho provata a casa, tipo si può dire quando l'ho accesa sono rimasto a bocca aperta, ho detto cavolo, questa è una bella radio, funziona veramente molto silenziosa, perché la valvola al contrario del transito ti porta a meno rumore, parliamo di transito senza considerare gli apparati di digitali e cose del genere, parliamo di un apparecchio classico, dai, un 140, un 440, ti posso dire in ricezione non ha niente da, di meno di quelli, parliamo nelle bande HF, parliamo in ricezione naturalmente, molto silenzioso, magari è un po' macchinoso perché devi accordare bene, basta che lo tocchi appena appena e perdi completamente il segnale, al contrario di altri magari sono un po' più selettivi questi nuovi transistorizzati, però lui quando ti acchiappa la stazione te la tira fuori bene. Oh, scusate un secondo. Avanti. Ascolta Robert, anche a chi ascolta giustamente. Siete d'accordo a mettere qualche firma e mandare un controllo a questa persona che tanto abbiamo capito chi è? Così me la smette del tutto. Ma svegliare, io posso dire la mia, io ho detto tante volte, la radio deve essere un divertimento, non ci matteniamo il cervello, io sono sicuro che prima o poi si stanca questa persona e finisce tutto qua, è inutile arrabbiarsi, fare, adesso la sento anche io, però se diamo troppa importanza poi succede che continua ancora più, invece continuiamo a parlare tranquillo, io vi ascolto tutti, per cui non ci sono problemi, e tanto c'è questo boom, boom, boom, non è fastidioso come gli altri giorni, però cosa vuoi fare Massimiliano? Io ho altri problemi, penso che tu ne hai altrettanti, così dobbiamo gridare altri problemi, fa la radio, sinceramente non me la sento io. Di nuovo a te Massimiliano. No, no, no, così almeno smette anche di fare questo boom, boom, boom, capito? Tutto qua, non è che giusto, tanto più o meno devo... sappiamo già chi è, ok? Perché lui è sotto radar e ogni volta mette la portante, capito? Giusto per smetterla del tutto, così da poi io che ho una macchinetta da PC, va bene là, era un intervento così là, ok riprendete. Ehi Amazio, non ti preoccupare, ti ho detto ci sono cose più importanti, la radio la vedo come un divertimento, poi se fosse un lavoro che mi disturba a quel punto mi preoccuperei diversamente, ma qua stiamo parlando, io spero che la persona che lo fa non lo faccia per motivi, non lo so per quale motivo lo faccia e che si stacchi, solo quello penso, era già qualche giorno, non si sentiva più e qua chiudo il discorso, se no avremmo troppo umana. Di nuovo a te Gianfranco. Sì, io infatti non ho sentito, è la prima cosa che sento, non so, io lo stacco ogni tanto per vedere se c'è cosa, ma io non sento niente. Ehi Gianfra, tu non l'hai sentita perché la metteva quando stavi parlando tu, capito? Ma no, la può anche mettere, non è che figurati, se dovessi guarda preoccuparmi di queste cose guai. Tanto gli ho sempre detto che è una sciocchezza che sta facendo. Quindi, ma non tanto perché le viene a casa la postale, perché qualcuno ha fatto un esposto, eccetera, eccetera. Perché più che altro c'è qualcuno che lo vuole picchiare, è tutto lì. È lì il problema, capito? Poi dalle cretinate si passa alle cose brutte. Lasciamo fare tanto, proprio che ti dica. Ok, va bene, là, era giusto un intervento così, là. Ok, riprendete pure, là. Li stavo ascoltando volentieri e sto facendo cosa lì, e quindi non potevo stare in radio. Però li stavo ascoltando e mi stava un po' rompendo questa situazione che metteva la portante. Ok, tutto qua. Sii attento, perché lo sappiamo già chi è. Sì, Amazonai, non ti preoccupare, dai, è finito tutto adesso, non tocca, non c'è più questo disturbo, per me era un piccolo disturbo, dai, non creava grossi problemi, l'altra volta era un po' più fastidioso perché stavo facendo propagazione, ascoltando qualcuno, magari gli dava fastidio, poi a Giulio lo annientava completamente, ma oggi era appena appena, diciamo, prendiamolo come un disturbo atmosferico, dai, ok, finiamo qui il discorso, non facciamo la troppo grande. A di nuovo a te Gianfranco. Sì, ma infatti, fossero questi problemi saremmo tutti più contenti, invece ce ne sono degli altri di ben altra portata, che questo è in sostanza dicono già biduri. Sì, già lo so, sono altri problemi, non è questo, dai. Ok, poi quando, per dire, troppo persistente la cosa, spengo tutto e mi innando, pazienza, su di non me ne vado a mangiare la radio, ma mi sono preoccupato se fosse stato un problema inerente al mio lavoro, che magari si disturbava qualcosa, per dire, qualcuno lo fa per lavoro, per dire, quelli che utilizzano la radio, per dire, i camionisti, i tassisti, quelli che trasportano oggetti, bombole o cose del genere, a quel punto se gli dai fastidio, di lì mi preoccuperei, ma tanto noi siamo qua, la solita chiacchierata serale, che c'è l'argomento da parlare, se no poi se non c'è neanche argomento spegniamo tutto e andiamo tutti a casa, anzi siamo già a casa, dai. Ok, di nuovo te Gianfranco, e infatti la cosa è strana, tornando a noi con la frequenza lì 656 mi ha detto kHz, è strana la RAI che è sempre all'avanguardia come tecnica e tutto, che continua a trasmettere in quelle condizioni assolutamente negative, brutte. Sì, soprattutto per noi poi che siamo distanti, è una cosa veramente che non si crede, ne hanno tolto tutto, quindi non so neanche dove si può ascoltare, più che in FM. Ma poi ormai sto notando che molti, hai visto quanti punti ripetitori, non solo l'Italia, anche ho visto anche in Germania ne stanno buttando tante di stazioni, stanno tutti abbandonando, gli unici che stanno rimanendo sono i francesi e soprattutto gli spagnoli, gli inglesi stesso, la BBC ha buttato giù tante di quelle stazioni, ha abbandonato perché dice chi ce lo fa fare, se uno si vuole ascoltare accende internet e parte. Scusatemi un messaggio, continuate già. Infatti così oramai. La tecnologia è cambiata, c'è niente da fare. Ok, vediamo se è rientrato Giulio. Giulio? C'è gente a casa, c'è gente, dai, non so se posso rientrare dopo. Comunque ritenete, mi salutate eventualmente, ci sono dei miei fratelli qua. Ok, riprendi già. Ok Giulio, benissimo, allora, alle prossime, buona cena, tanto tra poco mi sa che c'è la cena anche. Vediamo chi, dunque Roberto al telefono, chi c'era poi avanti? Claudio, hai risolto, avvitato, sì. Sono rientrato, già fra. Sì, mi sa che siamo rimasti in due adesso. Anche Giulio si è notato perché c'è gente a casa. E niente, stavamo dicendo, boh, non me lo ricordo più. Di quelle lì che stanno buttando a terra il tralicio, il fatto è che costa molto cari, capito, anche in termini energetici costano parecchio. Ma allora io ho visto una cosa, almeno stavo leggendo di questo gruppo molto importante, stavo parlando dei tralicci, non è tanto la corrente, perché la maggior parte di molti di questi tralicci sono in disuso, per cui corrente non c'è più, c'è il discorso degli affitti, preferiscono continuare a pagare gli affitti perché ci sono una marea di ponti in Italia, ma tantissimi, decine e decine, che non, inattivi, però preferiscono pagare l'affitto perché costruire, cioè andare a buttarlo giù, a metterlo in sicurezza, e questo costerebbe una cifra spropositata, perché secondo in certe posizioni, quando sono in alta quota, che deve andare con l'elicottero, fare la carica per buttarlo giù, portare i pesi, eccetera, costerebbe centinaia di migliaia di euro, alla fine preferiscono, continuiamo a pagare l'affitto pur avendo il ponte spento, che demolirlo, perché demolirlo ci vuole un sacco di soldi. Beh, si è notato anche molte, quando sono andati via ad esempio dalla questura, mica ci hanno portato via nelle antenne, nei cavi, perché costa troppo. È lo stesso anche roba nostra, ma roba, si parlava di 35.000 euro l'uno, l'avremmo pagato, lasciati lì buttati in zona molto alta di Sassari. Ultima tecnologia, impianti laser, eccetera, eccetera. C'erano dei bei binocoli di puntamento micidiali. Però tutto lasciato, anche le radio, tutto, cioè non conviene, capito? basta pensare cosa hanno lasciato gli americani su una limbara. Quelli che sono entrati per primi si sono fatti a porco, c'erano anche le officine, io sono entrato dentro quando era già tutto disintegrato, ma i primi che sono entrati ho sentito delle zurie, c'erano tutti gli apparati, hanno lasciato tutto lì, non hanno portato via niente, ci hanno smanettato tutto, portato via, sono rimaste adesso solo le tralicci, le parabole, le officine, dove c'erano le officine con il gruppo elettrogeni, e hanno sradicato tutto, i gruppi non sono fatto il modo di portarli via, però tutti gli accessori, le cose si potevano recuperare, anche i gabinetti, l'idraulica, tutto la cosa recuperabile di ferraglia, sono portato via tutto. A pensare che una ventina di anni fa non ti potevi neanche avvicinare, neanche a vedere, perché sennò ti sparavano. Adesso può entrare chiunque, io ho visto delle persone sopra le antenne appiccati, giocando, facendo il coso, l'arrampicata sulle antenne. E poi si lamentano quando succede qualcosa, perché a forza di pigliare colpi di vento di lì sono tutte, è tutto deteriorato, sarebbe tutto da radere al suolo e ripristinare i luoghi. Ma questo tanto quanto è roba che pagava il governo americano. C'è da preoccuparsi di quello che paghiamo noi. Guarda, un esempio per tutti vergognoso, mi meraviglia che qualcuno ancora non sia finito dentro. Tu vai al porto di Porto Torres, c'è quella struttura, se ne hanno divorato tutto, tutti i quadri elettrici sono spolpati, qualcuno se ne ha portato via gli infissi, dove doveva nascere non so che cosa, adesso non me lo ricordo, se una biglietteria cosa era, però una struttura proprio a metà, che oramai vuole solo presa e buttata via, è abbattuta, che è di fronte alla, dove c'è l'autorità portuale di lì, c'è una rete protettiva che riporta anche al molo, io ci vado spesso, ed è uno spettacolo osceno, c'è una costruzione con varie stanze su due piani, è proprio della serie buttiamoci via i soldi. Io conosco bene quel posto, ma senza lottare di moto, non so se tu sei mai salito su a Bunari, il parco di Bunari, sei mai salito? Sì, parecchie volte, ho visto che adesso c'è anche non so se sia un maneggio o se sia un ristorante o qualcosa del genere, comunque non ritrovo, dai. Allora, il parco di Bunari, io vabbè, ci andavo tantissime volte, la conosco da quando sono bambino perché ci andavo, l'avevano fatto all'inizio, avevano fatto il parco scientifico con dei, e addirittura c'erano anche delle cose scientifiche, perché c'erano degli specchi, dei giochi di luce, delle cose per far capire, ecco, c'era una specie di, chiamiamola nel piccolo, un parco giochi con il coso, l'ambiente nuragico, con i nuraghi, con tutti gli elementi, diciamo, dell'epoca nuragica riprodotti, e poi c'era una specie di seggiovia, tutto qua, una cosa veramente bella, fatto con degli effetti, poi c'era questi effetti sonori, cioè proprio per i bambini, fatto apposta per portare i bambini scolari. Io penso che sarà durato 6 mesi, non ha fatto neanche in tempo a inaugurarlo, l'hanno disintegrato, poi ha preso mano un ristorante, l'aveva preso un amico mio, c'è anche la piscina dietro, tu devi vedere cosa hanno disintegrato dopo che sono andati via, hanno distrutto milioni e milioni di euro di materiali e di cose, una cosa bellissima, hanno distrutto tutto, mi hanno radicato tutto, infatti ho detto ma è possibile, perché non siamo messi d'accordo con la gestione, siccome il comune è molto furbo, fa una bella opera, poi alla fine dice tu me la devi tenere tu, però mi devi garantire questo e quello, e nessuno ce la faceva a gestire quella, alla fine è tutto abbandonato, distrutto. Ecco, no, ma di lì è semplicemente la politica disgraziata, spendacciona, che deve far guadagnare l'amico, dall'amico, del contramico, una vergogna veramente. Finché non riusciamo a avere la mentalità americana, gli americani su queste cose hanno 3 miliardi di difetti, però la cosa che senti spesso che dicono è sono soldi dei contribuenti, e di lì non è scherza, no? Di lì devi stare attento non solo come li usi, ma anche che siano usati bene, perché se li usi male guai, perdi il posto e anche qualcosa di peggio. Qua invece sindaci imbranati, casini vari, non puoi fare un'opera che subito si ritrova in mezzo i costi gonfiati, è una tragedia. Guarda, in Italia quello che hanno sperperato, penso nel mondo, non esiste una nazione, e se unisci tutte le nazioni del mondo, parliamo di nazioni civili, non parliamo di Africa, magari di paesi un po' più da terzo mondo, no? Se sommi tutti i soldi che hanno mangiato tutte le nazioni, parliamo cosiddette civili del mondo, non riescono ad arrivare minimamente ai soldi che possono aver sperperato in Italia. L'esempio più vicino, basta andare ad Alghero e ti guardi il coso, la sala convegni, da quanti anni esiste? 30 anni, forse 40 anni abbandonato. Poi ti parliamo di ospedali, di aree di ospedali con le attrezzature conservate mai piazzate, che adesso sono già passate di moda, non serve a niente. Poi non parliamo di altre cose, ce ne sono da raccontare, è una vergogna totale. L'altro giorno in Giappone il treno ad alta velocità ha fatto un minuto di ritardo perché il pilota, il comandante del coso, del treno, è andato un attimino in bagno per fare un bisogno e ha lasciato in mano al suo secondo, dai, cosiddetto secondo, hanno fatto un minuto di ritardo perché non so che cosa è successo, alla fine si è dovuto dimettere il macchinista, il capotreno, non so qualche cacchio di indagine hanno fatto per un minuto di ritardo, tu immagina. Là, buonasera a tutti, dai, ci sentiamo dopo, ok? Ciao a tu. Beh, oggi cosa si mangia? Ciao, vai, vado a mangiare adesso. Io mi allontano due minutini, scusate, un attimo, riprendo subito, Gianfranco. Ok, ciao a tu. Oggi cosa si mangia? Oggi faccio la pizza, va. Già va bene, lavorando tu. Quasi, mi hai dato un'idea. Scappa là, che devo scendere giù a preparare. Ci vediamo dopo. Ok, ciao. Buon appetito. E eccomi. Sì. Antonio è andato a prepararsi la cena. Io sto ancora sventiando anche con un aggiornamento. Non mi biasimo nulla la sua macchina. Vabbè, è così. E niente, quindi se parliamo di sprechi veramente. Guarda, c'è gente che ci ha vissuto di sprechi come di altre cose micidiali. È sempre la solita storia, c'è poco da dire. Gianfranco, un secondino ti metto un attimino l'altra radio, siccome ieri sono andato in banda laterale con un'altra radio, memorizza questo livello di modulazione, cioè l'intensità di modulazione, e attacco un'altra radio e mi dici solo ho toccato il Mickey Gain e non mi ricordo esattamente il livello che ho regolato, l'ho fatto più o meno a occhio, guarda quanto sono, se sono forte o debole con questo, ma cerca di farmelo uguale con l'altra radio che riattacco tra un secondo. Ok. Allora questa è l'altra radio, guarda un pochettino se cosa è cambiato. Mi sembra leggermente più pacata, sempre forte ma più, dai usiamo il termine musicale, orecchiabile, dai. No, dico come forza, non sto parlando di qualità, la qualità sono due cose diverse, parliamo di intensità microfonica. Leggermente, ma proprio leggermente più bassa, rispetto a quella là che era un pochino più prepotente. Però non è assolutamente bassa nel senso che è una radio bassa, è una radio forte, però entro il limite ideale, dai. Ok, guarda, sto alzando un peluzzino, lo metto appena più alto, adesso dovrebbe essere sollevata un po' la radio. No, non più di tanto. E poi dimmi una cosa, il segnale noti differenza, forse questo è più basso dell'altro, confermi? Prova. 1, 2, 3, prova radio. No, portante e poi voce. Portante e voce 1, 2, 3 prova radio, attenzione canale 10. Per quello che è notabile, se c'è è pochissimo, appena percettibile, se no sono proprio gli stessi come segnali. Ah, ok, va bene così. La radio adesso dovrebbe essere più o meno uguale, l'ho sollevato un peluzzino. E cosa ti cambia secondo te come tipo di qualità adesso? Parliamo di qualità, la noti più fedele questa alla realtà, diciamo la voce umana, o più l'altra, chi si assomiglia secondo te di più alla voce naturale? Ma io onestamente adesso che è aumentato la preferivo prima, che era più pacata, più tranquilla. Adesso è un po' come l'altra che è molto prepotente. sempre. Per realtà, diciamo, a livello di realtà, che dici? Cioè, l'altra c'ha più una modulazione più corposa, più naturale, o questa è meglio? Ma direi che sono identiche. Ok, va bene così, dai. No? Cioè, no, volevo rimettere tutto più o meno come era prima, perché quando vai in banda laterale, se alzi troppo il coso, vai che hai qualche innesco o cosa del genere. Bisogna intervenire sul Mickey Gain e su altre cose, dai. Ok, va bene, questa è una radio simile all'altra, però di un'altra, di un altro rango, diciamo. Dai. Scusate. Avanti a lei. Io sto parlando con mio fratello qua, però sono davanti alla radio e ho notato una cosa, per me hai un po' di picchi negativi, forse Gianfranco non ci ha fatto caso. Vai. Gianfranco, ho picchi negativi? Prova, portante e poi fischia. Questo digitale non li percepisce onestamente. Giulio, l'ultima cosa, il segnale com'è? Perché posso abbassare, ma sta spingendo un pochettino, ma anche qua, cioè, guardando la potenza, anzi mi sembra più bassa dell'altra. Sì, il segnale è 9.10 pieno, l'altro era un pochino più forte, l'altro era intorno al 9.12, questo è più basso di segnale, però ripeto, ci sono almeno due punti S, ti prende da 9.10 al 9.8 di picchi negativi. Guarda un po' adesso se cambia qualcosa, 1, 2, 3 prova radio. Adesso sono positivi. Vabbè, forse era regolato diversamente. Il segnale è aumentato qualcosa? No, il segnale è sempre quello, però adesso sono diventati positivi. Quello che perdevi prima, se l'avevi negativo, adesso riguadagni positivo. Guarda adesso. Sì, è così, dai, 9.11 adesso magari il segnale, però adesso sono positivi. Ok, la radio la senti simile tu, anche tu confermi Giulio? La radio è bellissima, l'altra era un pochino più chiara, questa è un po' di mano un pochino più corposa, però è ottima, ma veramente bella. Va bene, dai, ok, allora lascio la regolazione del coso, del power così, e il Mickey Gain lo lascio in questa posizione, dai. Sono lo stesso microfono che ho utilizzato con un'altra radio, che poi dovrò fare quando c'ho tempo, credo che bisogna farlo con calma, magari me ne vado con un altro canale con qualcuno e con un altro parlante esterno e faccio la regolazione dell'altro microfono, perché quello mi interessa farlo uscire bene, perché quello è molto sensibile che c'ha con quell'equalizzatore, basta lo sfiori appena. Purtroppo da solo non riesco a farlo, perché quando lo faccio con un'altra radio, anche senza antenna, si entra un po' di ronzio, di alternata, e non c'è niente da fare, devo farlo con uno da fuori. Ok, dai, scusate, dai, che continuo qua, che c'è mio fratello. Vi saluto, dai, ciao, sono sempre davanti alla radio comunque. Avanti Gianfranco, buona serata comunque a tutti e due, dai, tenetevi salutati, intanto adesso fra un po' noi ceniamo qua. Io infatti sto andando a cenare, ne approfitto, ciao Giulio, ciao Roberto, alle prossime, ciao anche a tutti gli altri che sono in ascolto. Ci sentiamo. Anche io mi avete tolto la parola alla bocca. Prima di tutto saluto a Giulio, che lui è uscito prima di tutti. Ciao Giulio, buon tutto, buona carica e buon proseguo di serata. Io mi comportate anche a te Gianfranco, dai, avremo modo di risentirci, non so dopo se ci sarò, comunque se c'è qualcuno eventualmente, se ho voglia di accendere e coincide con qualcuno, se no tutti salutati e ci sentiamo eventualmente domani. Cuoriti da parte mia, ciao ciao. Ok, ciao a tutti. Quando è casino in onga. Chi è avanti? Anche perché sia, Claudio. Ciao, buonasera. Non mi ascolti di radio, di segnale, sto provando il microfono normale. Cabba, il radio c'è in normale, di segnale c'è in 9.20, quasi. Kappa. Oia, e c'avevi, sei cotta e sabizza, che so con vende. Arrivederci, ci sentiamo dopo, ok? Altro che stavo cambiando microfono, ok? Kappa, bomboletta. Ok, dai, io facendo giù a vedere come la pizza. Ok? Eia, va bene, adesso va bene la radio. Una bomba, cra. Kappa, va bene, a dopo. sentirci? Ora? Andiamo bene, andiamo! E bello, come va, sta a posto? Mi sono arrivati i vetrini, adesso lo cambio dal telefono. Ne ho ordinato uno, poi mi dava errore. Vabbè, ho riprovato a fare il secondo. E poi mi praticamente ne ho acquistato due, dai. Avevo giù un €10, vabbè. Ma no, ce l'ho riscotta, se mi si rompe. Vetrino di protezione. Oh, ciao, buonasera. Anto, va bene la radio adesso? Una cannonata, una cannonata. Va bene, il segnale già è buono, insomma. Non è che sia molto alto, comunque di più non posso fare. Ciao, Rogerio. Claudio. Come mi ascolti, bene? Benissimo, siamo tutti con nuda, vuol dire a questo vero, sai di? Sì, vabbè, ma è giusto che sto mettendo al posto qua un po'. Se riusciamo a rimettere in piedi un po' tutto, dai, però sto provando i baracchini che mi interessano di più degli HF. Sì, io l'ho fatto fuori quello modificato, te l'avevo detto, sì. Sì, me l'avevi detto, me l'avevi detto. Ah, cosa ne fai, va? Ma infatti cosa ne fai? Va bene, va bene. Ok, dai, vado a papare, se ci siete ci sentiamo dopo, riprendi a tu. Cappa, c'è una cannonata, sì, vai veramente bene, bene, bene. Cappa. Ehi, ehi, ti ho accontentato. Qualche vattino in più, microfono, ho rimesso tenne più tre, la radio Galaxy. Poi gli altri, man mano, le metto in piedi, non c'ho tempo, tu, sono un sacco incasinato, giusto così per fare due chiacchiere, dai. Va bene. Adesso sì che sei tornato tu. Gappa gappa, Luca c'ha un bel segnale qua, vabbè che Luca è molto favorevole a me. Prova Luca, quanto ti arrivo io, così ti dico quanto mi arrivi tu. Tu sei 9-10 là. Tu sei un po' più alto, su 15, 9 più 15, sì. E c'ha a vedere, fai una prova. Guarda a vedere adesso, cra, com'è? Più o meno come Luca, se sollevi la potenza arrivi come Luca, però tu c'hai la potenza arrivando, Luca c'ha 8 watt, 10 watt. Ma oh, questo va, 6 watt. Vabbè, 6 watt, ma tu sei molto più in alto, arrivi più forte. Gappa gappa, va bene. Vi saluto, vado a pompare, se ci siete ci sentiamo, altrimenti alle prossimine, ciao. Ciao cra, adesso l'ho riabbassata, va. Ci sentiamo. Così a tocca, già va bene lo stesso. Arrivi 9-10, no, non c'è problema, arrivi benissimo, alla grande. Cappa, volevo fare una prova. Già l'avevo già fatta con la tanta potenza è un altro discorso. Ok, basta così. Ok. Ciao cra, ci sentiamo. Ciao raga, a più tardi se coincide, ciao ciao. Ah, è tornato lui, evviva! Evviva! La gente ha dovuto spazio, Antonio, pongo chi sotto il vento, Mamma mia! Hai detto, ancora sto facendo spazio e sono un po' incasinato in questa stanza. Ho dato priorità di altre cose, questa la faccio con calma. Quando pongo chi sotto il vento, vedi i vostri video. Non intendi l'incontro mio, Antonio, sai una cosa? A chi lo bongo apro la comi. Il vostro mangascetto lo bongo fuori un gavirio. E sarò la comi, non ci invento che non intendi. Ah, vai un gavirio, vai. Gira e gira la casa, ci sono 2 metri di spazio, praticamente un corridoio che gira tutto intorno alla casa. Lo metto lì dietro, ne faccio una scatola di legno, bello, sono disatto e tutto, te lo pongo e chiudo dentro, entro in gavi della Vaconi. Così non intendi il vento. E andava peggio. Sempre l'RM Italy c'è, non è un altro. L'800 però. Già va bene, già. No, ma che? Avevi ciuccia, Già schirreggia, già. Facciamo la borsa, ciuccia. Dice ciuccia buro senza, capito? Senza l'inghigerato. Ia. Stavo a toccare questa tua quella dentale, sì. Iniziata, vai, bene, sta andando bene. Sì, dove vado a levarmi i punti, poi vado a levarmi le altre radici. Bene. Dove? Qua Sassari? E lì, in via Carlo Felice. Bravo. Ottimo per la truppa. Va, siamo un casino qua. Se non iniziamo, non inizio più. pazienza, rimango senza soldi, ma non mi interessa. Lu, sono bravissimi, stanno seguendo Anna, l'hanno seguita loro, l'hanno sistemata loro e l'hanno veramente messa a posto, tranquillo. Ma chi però? Non è quello che va dove vado io, no? E a che lo felice? Ti venisse un bel kibit là. Tu dove stai andando? La detta, come si chiama la tua? La Doc's Clinic. Allora, il mio dentista si chiama Roberto Cossi. Roberto Cossi, ma non mi sei sopra la manca? Aspetta, anche che stavo mettendo il vetrino. Non so se ce l'ha, manca un palazzo, A me non c'è la manca intesa sotto. No, salendo sulla sinistra. Ah, sinistra, ho capito. Io sono tutti bravi, tutti bravi sono. Tutti bravissimi lì via Caro Felice. Quindi Cossi? Piano piano, da, sacrificio. Sì, vabbè, se non si fa mai i sacrifici qua non si fanno. Cavolo, abbiamo 80 anni. Va bene, prendete voi, io vado a papà e li accettiamo dopo. Ciao, lascio tutto acceso qua. Cappa mio, sto facendo una prova ad alta potenza. Vabbè, riesco a andare un po' di più, però com'è? Lì sì, 9.15, 9.17, 9.18, beh. Leggermente più alto di Lucca, ma siete lì tutti e due. Cappa, dai. Stava a tradire in varia. Davvero, tu già va bene, vai. Fatemi andare a pappare, ciao ragazzi. Cappa, vai, non c'è problema, avanti tu. Ehi, mi sto piantando il vetrino io. Tu, cosa ci sono riuscito? Non è proprio messo bene al 100%, ma va bene. Tanto lo mio, e chi se ne frega. Tu, cazzando dei giri si vuole zero, si vuole zero. Cazzo, tiro in mano dopo, bravo. Vai, vediamoci le luci, vai. Mata di varia. Cappa. Io voglio sentire, mi sente, se no si dà bene come te possa, ma non ci abili. Cioè, vuole poco più su, cazzo. E vabbè. Già va bene lo stesso. Come dica anche io, già vabbè. Già scrivete, no, che boh. Allora è picco massimo. Basta di noi, no, che ciu. Fai la valvole. Se mi compro quello 747 che da 100 watt e va, non bene, benissimo. Allora, io si vede 9D, addirittura in 3D, io vedo 9D. Ma mi sa che mi piglio una, come si chiama? Mi prendo una bustina, io c'ho un po' di, mi stavano un po' di mal di denti. Sì. Capo, adesso ho abbassato. Adesso, però. È una frubianetta lui. Non me ne sono accorto di una frubianetta. Sì, quelli. Ma 747 sono i migliori. Dico la verità. Però quelli a guida manera sono un altro pianeta. Stavo dicendo, abbiamo un cavallo, già a fare negri cane azzurra. E che è successo? Sto prendendo i vostri anni. Non sa dalla banda. Casino, la zona è un casino. Sono selvaggi, Gio. Ma sai che attacco l'altro, va. Hola. Un po' di meno. Hola. Basta e avanza così. Non vuole il capo, lui, cosa? Sono tagliente a parlare ora. Sì, ma c'è il discorso anche che ci sono dei bambini, capito? Ci sono anche i bambini lì, un casino, non qua. C'è per i coltelli, i bastoni. Aiuto. Che cazzo c'è il mondo? Va. Vabbè. Qua il bosso lì, qua al monte. Però stanno bene, benissimo. Non so di questi problemi, cazzo. Mi arrabbiamo e cazzo non ci cazzo di bene. Poi ci ho visto da altri bassi, non me l'ha fottinuta. Mi arrabbiamo e sto tranquillo. No, purtroppo lì lo sai com'è, sono tutti forti, zo. Finché non ci scappa, finché non ci scappa il morto non sono contenti. Vabbè, ero fuggito un morto. Cos'è, quindi qua, purtroppo, è un casino, guarda. È un casino. E cos'è sta cosa, mamma, riesci a vedere? Io avevo stato a fare i miei, qualcuno lo conosco, perciò c'è un tipo che si chiama Gippino, ma tu lui subito il problema di là a me, ti occupa già so come comportarmi. Lo so, ma il problema è che c'è sempre Gucci, sempre. Ma la pulizia è qua, Radda? Sì, anche io la pulizia. Cosa, già farà, già, quando è troppo. Ma, farà, quando non devi parlare. So niente, pure l'atti d'otto mi lascia di, c'erano le biciclette con rocce, con cosa, ho l'impianto a botte, dove abitavo io prima. Ma per carità, dai. E poi sono uno più proprio l'altro, è intervenuto da pulizia, carabinieri, un casino. E cosa vuoi fare? Un casino, sì. La nuova generazione, non so se hai visto anche il telegiornale, quelli di Urde, non so se hanno fatto un casino nero. Pure con i poliziotti si hanno imbigliato, roba di sbirri che viene, carabinieri di pulizia, pure con si hanno imbigliato. No, perché è gente che non viene a fregare niente, gente così, per carità. Ma loro lo sanno perfettamente il problema cos'è, i problemi quali sono. Sanno che non li fate di nulla, lasciano così, dopo che non si ne cavano i rocce, si affarrano. Allora intervengono. Ma già lo sappiamo l'uma cosa, certi problemi, burro. Sono cose che pesanti sono. Non funziona così. Così si vive male. Che senso ha vivere così, non ho capito. Lu, sono taglienti a chi da maniera, me. Non mi ha fatto nulla. Cioè, tutti niente drugata, me. Capito? Ho capito, ma loro vivono così e devono far vivere male agli altri. Lo so, purtroppo lì la gente che non capisce niente, e chi di dovere ne capisce, meno di loro ne capisce, finché ci sarà il buonismo, e la galli come deve la galli, chi ci saranno sempre in giro, fregatene che ci ho avuto anche io a che fare. Ah, io no, grazie a Dio no. Perché con questa gente qua non c'ha proprio che fare, guarda. Non manco mi ci trometto, guarda, credimi. Cosa mi trometto a fare? Ciao, no, ma sono cuzzita, niente che non capisce niente, no, ma... Per carità, se la c'ha dubbio in meno, sai cosa abbia fatto? L'abbia pigliati, e se l'abbia cutti tutti, tu non puoi stare in mezzo all'altra gente, se l'abbia cutti tutti, che te diventa un coso, un sarrate. E boh, ma cosa, l'unica cosa che si mette, stanno buoni per un periodo, poi vado nel casino, mettere in subbuglio le famiglie, e ci ne concuscetti, c'è anche chi ci fanno pure allucinazione di tutto. Non sono gente che non dovrebbe stare, ci sembrano buoni, ma no. A loro non interessa, l'unico obiettivo è di farsi, rompere il cattolo all'altro e fa casino. Fanno un sacco di complessi in capo. Ma lo problema è che dobbiamo pure all'altro, hai capito? Ma cosa? Tocca anche agli altri, ma vabbè. La giustizia che non gliene frega niente, difendono anche i miserabili, difendono, non è che difendono, non è che difendono la gente per bene, no, anche i miserabili. Il problema è questo, finché ci sarà il buonismo della giustizia, queste cose non se ne verranno mai a capo, anche perché lì c'è il giro di soldi, ma da questa persona è qua. Cosa ci crediamo? Visto che ci psicologhi, che dice cose, che dice niente, ma come manco di visiteggiare? Cioè non gliene frega niente, perché ci sono in giro per loro è lavoro. Se non esisterebbero per loro non sarebbe niente. È un casino, sì, perché sono le 9, fa boccare 5, vabbè, lo mette le volte, tu via, fai una gana, non giocare con nulla, nulla. Allora, vabbè, cosa è successo? Così? Vabbè, comunque ripeto, a me, come ne può fregare? Il problema è che sono stravagante, secondo come ti gira a rompere la balla a tutti. Magari pensano in chi sia poi nel mare quando non è colpa. Sono così, io lo so. E poi fanno casino in casa, pensano che tutti si stanno salendo dalla finestra a baccudille. Mica penso che state in questa situazione. E lo so, me. Cattano bene, cattano bene, te lo chiudendo gli osso. E che ti arrestano, se no l'avrei fatto ben volentieri. Un altro in meno che ti rompa le balle. Ah, ma lo sempre vabbè, ci ho cogliato, anche se non c'è niente. Ah, mi saluta la verità, che coso, buttiglione. Capa, guarda che non è così, mica, ando di gira a parte casino, un bel furume. Con chi da di sopra briende, se dite che le campa fa la ghigina in capo, a bozzi, guarda, manco rigane, una persona così se ha fatto un mio figliolo te l'avrei accolto dal balcone, cosa ne fai? Oltre che non l'avrebbe mai fatto, anche la prima di cazzo gli avrei spaccato le gambe, per una cosa del genere. Ma come si è mai comportato bene? Non posso dire diversamente. Ma se no è che mi ha fatto piazzare. E lo vado ogni santo giorno, perché io vado ogni giorno lì. Lo so già. Ma se no che mi interessi, Ciao ciao, ogni da casa Zoe. Via. Quei tipi di persone sono persone imprevedibili. Cazzo gli rende diretto a casa con un boschetto, ma roba da macchie. È la polizia che nel perché il padre è più stronzo del figlio. Oh, lascialo qua e se il padre dice lasciarlo lì dobbiamo al cazzo di te ti pigliavano il bambacco a te. Per carità, che schifo. Casino. Capa, è che non aveva gana di farmi carriera, se no te l'aveva accuto dal balcone. Ma tu non è la vegana o no? È fea, è diverso. Ma che va? Cioè, tutte le persone dovrebbero dare il premio per quello che hanno fatto. Invece no, la carriera mi fa e va, vai che ti paghiano in cinque, vai. E magari ti ne hai 30 anni, ma aveva ammazzato un pezzo di mezza. Io sono dal parere che ognuno a casa sua e via. Vabbè, purtroppo un casino, tanto sembra facile, ma non è facile. Non è giusto così, si viene a dire un capo di mezza, si viene, per carità, purtroppo per via di cosa ci sono dovuto stare un po' qualche mese, poi quando mi hanno dato la casa ti siamo andati. E ma tu vai? Già si sta bene a casa nostra. Ma non sta bene, ma tu che mi saltona, un po' come tu, un po' di smercio, beh no? Ehi, ma che m'appigli? Di rusanimi, ma non le fate di nulla. Io mi dato già la riccia di uno. Oh, è casino, è una vita un po' difficile. Difficilissima. Ma per carità, passa così e meglio nulla. Cazzo, ma tu la conosci la moglie di dentro? Cazzo, una moglie e due ragazze, cioè, che sono le figlie, cazzo, che sono uno splendore, è due guglione, andata a fuori. un'insegnità mezza, ma non ti innanda, non è che fai schifo. Io te la conosco, a Puglia. Ma sono una seria, cioè, anche se mi sa bucaria. Cosa vuoi fare? Cazzo, ma tu cosa sono? Sono, vabbè, sono stanco, perché ho fatto una bella passeggiata. Cosa? Ho detto sono stanco, ho fatto una bella passeggiata. Ma tu vuoi? Cosa vuoi fare? Oh, Maria già cammina, io sono pigro. Meglio, è bello camminare. Certo che fa bene. Chiappa. Ci dobbiamo lasciare un attimino, ci sentiamo dopo, anche ho scelto un attimino in bagno, poi da fare una cosa, ci stiamo dopo. Vai tranquillo, non c'è un problema, tu vai. Prega.